se sbaglio qua, allora il verde va qua, sì, beh praticamente va accendo questo computer, no? No. E non accende, perché si era scaricata la batteria, l'avevo messa a caricare, appena messa si è sciolta. Non si può fare niente? L'ho portato da un tecnico solo e mi ha detto che non si poteva fare nulla, perché si è bruciato e questo e quell'altro. L'ha smontato, ancora per te non si può fare niente. Ne dubito, guarda, non lo so. No, comunque a me ne hanno dato uno da poco, nuovo, bello, un bel PC, ma bello veramente. Praticamente un 4 giga di RAM, 500 di hard disk, gli è partito il BIOS. Ma c'è a posto? No, non si può fare niente, cioè si può mettere a posto, sì, però voleva la candela. PC è nuovo, bello, ma il computer qua, beh, un HP bello, bello veramente. Però non si può fare nulla, nel senso non è un lavoro di 100 euro, ecco. Conviene. Sì. Vabbè, magari trovando qualche pezzo, qualche altro computer che ha altri pezzi rotti, si può fare, come si fa per i baracchini. Certo. Sia diciamo, i tecnici. Mettendolo il computer rotto e collo, lo buscano poi un altro computer e lo piazzano, capito? Ma vediamo, quel PC è lì da 2 anni, mi sa, 2 o 3 anni. Tenuto male, perché se non un PC me lo compro nuovo, quanto lo leggo io, è vecchio, però lo tengo bene, lo tengo sempre ordinato, lo smonto, lo pulisco, lo faccio, cioè, lo tengo bene. Però per avere 2 anni, ha messo male, sporco, come sporco. Vabbè, non è che tutti si mettono a smontare il PC, io non le smonto per dire, ho montato quello fisso un paio di volte, l'ho pulito, ma questi portatili no. Ami, capisco che è dentro, ma io dico pulire il monitor, pulire la tastiera, non ci vuole niente. Ah no, quello lì no, quello già lo pulisco, io uso il pennellino, li pulisco col pennellino a soffio. Posso che tu li tieni, ci tieni bene le cose, ma molta gente se ne frega. Io uso quel pennellino che c'ha il soffietto per pulire la macchina fotografica, anche se serve. Cioè il soffietto, ma soffia e non si sente più pulire. Fatti avanti Gianlu, fatemi finire qua, non ho due file ancora. Gianluca, ci sei? Via, aspetta che abbassa la tela. Ecco, dai. Cosa combinato? Non ho combinato, ci ho buttato via quel mineretto perché me l'ha bruciato. L'ho buttato da una parte. Niente. Come ti sta arrivando il segnale adesso? Cioè, è sempre buono. È sempre bello, bello, bello, bellissimo. Aspetta, aspetta che ti ascolto con l'altro, che questo qua c'ha il LED e l'altro c'ha lo sweater. Per vedere se è diminuito o aumentato, ha piazzato l'altro adesso. Ecco, io ti ascolto egregiamente. Aspetta, adesso aumento un poco. Ok, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 6, 9, 9 abbondante. Cava, cava, cava. Andò, vedà, e già mi accontenta allora. Ma cosa è successo a poche parole? In poche parole avevo staccato tutto per i fumi, ho staccato tutto e mia moglie ha visto la presa staccata, ha pensato che si fosse staccata e l'aveva attaccata, non ti dice se è fatta tra. Tutto fuso. Come è fatta tra? Se l'è staccato? Mia moglie ha riattaccato la spina. che come ho attaccato stasera invece che uscire più forte uscivo più basso. Non mi dava vatte, non mi dava vatte, niente. Controllato, qui accende, quindi non è fusibile. Se fosse più fusibile non avrei manco acceso. Ho controllato, ho aperto anche la pellicola, ho detto se non è nulla, braccio. Tanto, meno male ci avevo sostituito. Tu già lui e tu sei combinato. Faccio il travaglio, stavo mettendo a posto sempre questa roba qua già, e niente, fatto un paio di commissioncine, ora mi sono andato a fumare da Giampaolo, e mi sono portato qua, mica cena e sono qua, niente di che già. Quindi vabbè, interessante stare sedini. Interessante essere sedini da voi, anche se non fai cose speciali, non vuol dire, dai, passi la serata, tranquillo e via. Hai risumato gli apparecchi. Come ho detto già, ce l'avevo risumato, ma non ho notato lui. Anche perché sembra così, ma quattro erano io dopo, se non ho risumato tanto poco, che cosa magari succede? Anche accenderle lì, capito? In modo che si accendono, che ci sia la corrente all'interno. Papà, io c'ho un portatile che bisogna riattacchi. Esce bene, lì. C'è un portatile che sono molto che non lo uso. E qual è? È l'Intec, quello SOS con la valigetta, te lo dico? Ah, bello quello lì. Sì. Sì. Una roba sola di Intec. Inketet. Care, aspetta, la montro busiga. Cattalan. Cattalan. Allora ho detto catalogo, catalogo. Catalogo. Allora ho detto che vuole parlare solo tre persone. Vuole parlare? Tre persone basta. Perché? E vabbè, dopo di me lo sto ascoltando. Non sono andato neanche cagato mia. Guarda, se è entrato qua io non ci metto a non sentirlo. Anche con me ha fatto così poco. Sto dicendo, se è entrato qua non è cagato per nessuno. Anche qui devono sentirlo. Una volta l'ho preso, back. Tu fatti entrare mai. Se tanto l'ho fatto entrare tu. E ho detto le persone spera. Comunque, voglio anche la sua, non c'è problema. Perciò non è dovuto dare nulla, non mi devi. Fate un metabolo io già. Se c'è, ti sto dicendo, 2 ore, beh, questa è qualche settimana fa, Nulla, non fate entrare. Vabbè. Poi basta. Forse si è offeso perché gli abbiamo detto che non asciuttava. Non va, già. Tu vai da un attimo, ti vado a sciacquare le mani, un secondo, scusate. Vai, tranquillo. Chi è rimasto? Chi c'è? Avanti. Dico, ma stasera non mi ascolta. Non riesco a sentirlo, non mi sente. L'ho chiamato, nulla, non rispondevo. Chi già? Attacca. Figa, tanto ti ho detto, con solo tre persone parla. Ok, Claudio, Giovanni e Brucetto. Ecco. Non sapersi. Si è scelto le persone. Non è problema, vabbè. Mica io non devo rendere conto a nessuno. E tanto meno devo. Va bene così. Fa la stessa cosa già. Almeno ci spieghi il perché. Se uno non sa il perché, almeno ci spieghi il perché si comporta così. Infatti. Almeno ci dà modo di parlare. Mi dà l'asilo. Infatti mi ha sottivo. Tu mi sento a voi. Così? Vai, parla, già me ti sento. Ok. ai, se non ricordiamo i guai. Va bene. Cioè, se c'è un motivo, dillo, qual è il motivo? Ma io già mi immaginavo qualche cosa. Tu dici per qualche sopravvoluzione? Sai, qualcuno ha fatto, ha messo lo zampino. E vabbè, non c'è problema. Non problem, va bene. Ognuno è libero di fare quello che vuole già. Mica deve, cioè, non devi dare, non devi fare nulla. Capito? Non mi interessa. Guarda, ci sei rispetto. Quello adesso un po' come può fregare. Vabbè, comunque niente, già, stavo dicendo che ho fatto una visita. Come cazzo sta quello? Ho fatto una visita medica per entrare al lavoro e praticamente devo ripetere di nuovo il elettrocardiogramma perché mi hanno trovato alterazioni al cuore. Davvero? Hai corso? Aspetta, prima di andare a fare l'elettrocardiogramma ti sei messo a correre, hai fatto magari fatica correndo, ha camminato a piedi, a corso. Alle 8 del mattino. Beh, cosa ne dico? Tu cosa sei? Sei andato a piedi invece che in moto, in tram, che sei andato a piedi e forzato. Macchina, alle 8 del mattino c'era fredda a piedi. In macchina ci avevano accompagnato. Vabbè, ma perché a volte anche la pressione si altera, eccetera, quando tu vai a piedi e corri, magari puoi alterare il momento dei valori, capito? Poi si riprende, si rimettono in sesto. Praticamente le solito queste cose non le faccio molto spesso, ho fatto due volte, una volta avevo problemi per la sigaretta e poi sono stato costretto a lasciarla, e in più questa volta qua, no, una, tre volte, due, tre, tre, due, quattro volte, questa volta boh, mi sono trovato un po' così agitato, infatti la dottoressa mi ha detto, sei calmo, ti vuoi agitato, non sono tranquillo io, e mi ha trovato così agitato. E forse avevo un po' di tachicardia, roba, o ti sei nervosito, boh. Vabbè, meglio che lo rifai, speriamo che non sia nulla. Il problema c'è cosa è, che adesso non ci fai gli affari suoi. Mi stai facendo una visita, non ti mi fai male, sei sposato, con i tatuaggi, ma le carte della putti a te. Te l'ha detto, la dottoressa? La dottoressa, sai. Ti ha detto cosa perché c'è i tatuaggi? Ma ti ha detto cosa perché ho i tatuaggi? C'è la macchina che si è indossato, la faccia un po'. Vabbè, tu ti ha detto cosa perché ho i tatuaggi? Ti sento benissimo, chiaro, chiaro. Ehi, perché tu hai questi tatuaggi? Ma adesso te ne affutti. Ma giovane ero qui. Sei grande, avevo avuto 50, ero di anni. Sì, perché a me piacciono, se a me non le piacciono non se li faccio. Ma per dire che li faccio gli affari suoi. Perché? Ma se i tatuaggi possono lavorare, se non è tatuaggio, se è tatuaggio, cosa vuol dire? Uno può essere anche un marinaio, con i tatuaggi devono essere un casanzino, cosa di una fucchia? Ma ti dici che di guio? Sì, ma se ne facevano i casanzini e i marinai, adesso sono una moda i tatuaggi, è una moda, non è più come prima che si rifacevano i casanzini oppure i marinai. I marinai si facevano le sirenette, si disegnavano, tutte queste cose qua. L'ancora, sì, ma lo so, già lo so. Però se tu vai a tatuaggi non so, diciamo, che sei stata in galera, no? Comunque la macchina non mi ha avuto in nulla. Mica gli interessa, dov'è il problema? Cioè, se non la fa una visita, non è che mi devi fare il terzo grado. Poi, allora, sono passato. Prima cosa, sempre lei, mi prelevo del sangue. Io non guardo, mi giro, perché non mi fa pressione. Poi, da lì, l'elettrocardiogramma, poi da lì sono andato dal medico, ti fa le domande se ho avuto malattie, lumbare, è stato mal ricoverato, fumi, non fumi, bevi, fuma, no, ok. Poi da lì un altro medico ancora, tutto a posto, cioè confermare la, tutte le visite che ho fatto, no? Confermare, ok, a posto, lei dice grazie. Se ti fanno queste visite qua, non capisco cosa ne fanno queste visite, buttano le stesse aspetti morali, psicofisici per lavorare. Allora, fare molti bianchi già. Fare molti bianchi. Le cantieri, sai, devono fare i controlli perché praticamente devono, come si dice, devono, aiutami, la faccia deve essere sana. Per esempio, facciamo un esempio, un ragazzo che è l'unico autista, c'è stato anche un secondo saldatore, è l'unico autista, gli hanno fatto con le viste, l'hanno fatto a me, io sono idoneo, lui no, perché gli hanno fatto tracce di alcol. Una selezione fanno così. Una selezione. Devono essere a posto, non deve essere gente alcolizzata. Già, cosa mette la selezione? Però non c'è, non dico, alcolizzata. Gente che è abituale, ecco, a bere ogni giorno, a essere continua lì, capito? È una cosa così, ogni tanto un bicchiere di birra va bene, ma lui ha tolto proprio le tracce. Infatti l'hanno rimandato a fare la visita, mi sa che lui non entra. Se vuoi fare notte siamo entrati. No. Siamo sulla modulati. Ma mi hanno detto che quello beve. No, Luca il portatore dice Lucio. No. Avanti, il portatore. Venga. No, stavo dicendo, cavolo, se ne accorgono appunto dall'analisi, si blocca, niente. Sì, io dico la selezione nel senso che deve essere sano, sano. Quelli che sono i bianconi, che sono chiusi, se cose li mandano, li selezionano, li mandano via. Che fanno le visite ogni anno in tutti i settori? La vera evidente che a forza è caduto? Tutto ti fanno, urina, danura, spirometria, ti fanno elettrocardiogramma, un sacco di roba. Io sono il nuovo tipo di lavoro, solo e ne ho trovato questo, diciamo questo, ma attenzione, adesso vediamo, ci dovrei riandare. Ma potrebbe essere anche un fattore anche di stress, Luca, o di agitazione, magari un periodo che sia un po' agitato, capito? E purtroppo è così, perché... perché del lavoro, capito Gianluca, è un casino. Aio, che sto pensando a Trento. Questi figli Gianni sono maledetti, ma sono talmente fini che poi non piegano. Vabbè. Calma, andiamo di nuovo, dove è il programma? Oh, poi l'appuntamento, 18 febbraio. Ma tieni conto, oggi ne abbiamo 25. Al 18 febbraio. Stavo dicendo, molti caffè prendi tu? Sono di più caffè. Non ne prendi? Coca-Cola? Coca-Cola ogni tanto, ma che la tiamo la bevo, sì. Ma che quello non vuol dire? No, se sei che prendi molti caffè, quello già lo può fare. No, ma deve essere un fattore magari. Appunto che magari un periodo magari di tanto, oppure che magari il giorno che ti hanno fatto quella cosa lì magari l'ha fatto il gatto, boh. Ma adesso sono andato in macchina, non sono andato né moto né a piedi, e in più non hai fatto colazione perché devo andare a digiuno, non lo so, boh. Sì, la tipa se ne accorge che è un po' agitato, stai tranquillo, boh, non lo so, ma se vediamo cosa dicono, e se no, boh, forse devo rimanere di piatti. Io posso anche andare tranquillamente, non ho nessun problema. Certo, devo provare queste cuffie un attimo, vediamo se sono sempre bravo di stare le cose. Aspetta. Sì, grazie. Potrebbe anche la pressione, bisogna controllare per vedere com'è, capito? Che la pressione si mette. Avanti già. Vabbè. Ma magari non è nulla, glielo ho spiegato, ma era forzato, di solito succede quando cammini a piedi, corri, fai, capito? E poi magari ti migliora la pressione, ma che cos'è la pressione alterata, normale? Faccio con pressione, ma la pressione. Cosa ti fa? Ciao Gianni, ciao Gianluca, ciao Luca, ascoltateci. Certo. impressione. Che tipo di lavoro deve fare, Luca? Buonasera. In comune deve entrare a lavorare. Ciao Franco, tipo di lavoro è verde urbano. Ehi, cazzo, ehi, le cose visite sono così. Insomma, anche da noi le fanno così, Luca. Io una volta ero uscito non idoneo a quella mansione che ho adesso, due volte sono uscito non idoneo, due anni. E Malibu c'è per un'altra mansione, meno male. Poi, chissà perché, ho rifatto al terzo anno, l'ho rifatta idoneo. Beh, ma anche io non ho avuto problemi, capito? Sono stato sempre, sempre idoneo, no? Grazie a Dio non ho avuto problemi di salute. Sono andato al comune alle manutenzioni e dice non sei perfetto, no? Cioè perfetto, dico, mi stai bene di salute. Sono passato. Ecco questo qua che è meno, c'è una gattata, dopo sono gattata, non fai tante ore neanche, sono poche ore, dicono sono soldi, allora ti fanno fare poche ore. E ti stanno richiedendo tutte queste visite. Ma poi ci dico che sono idoneo, cioè sangue a posto, questo coso qua, cosa non si chiama, dell'elettrocardiogramma, poi il medico già pensa tu, mi stava cercando disperatamente, e poi il mio numero ce l'ha il numero, e poi davanti a voi per caso chiamo per via, che quindi mi sono uscito nell'emologo, e mi fa di attendere quello che sta lì. E ti dà le ricette, come si chiama, vabbè, quello lì, mi fa un attimo, in linea, e mi passa al medico, e poi mi ha detto, vieni in fretta, ti vuole un'impegnativa, che devi andare di nuovo a fare l'elettrocardiogramma, perché un po' mi ha messo, diciamo, un po' così, ecco, preso male, comunque la faccio, non c'è problema, tu pensa, il giorno 18 mi sa, giorno 18 alle ore 8 o e mezza della sera. Ciao Franco, mi sentite ben entrato? Ciao Gianluca. Oh Luca, cerca di non andare agitato, di andare tranquillo, perché se sei leggermente ti agiti appena per qualsiasi cosa, oppure corri, cose così, devi andare passato, proprio tranquillo devi andare, perché sennò ti altera. No, vabbè, forse io non lo so. Non l'ho mai fatto, Poi il giorno prima mica ho bevuto niente. Già avevo qualche bicchiere di birra, qualche bottiglia, ma adesso no. Qualche bottiglia di cosa è capitato, non l'ho bevuto. Ah, ma io quando bevo mangio. E mangio un bel pure, mica con capi gusti. Capita molte volte, ne bevo due bicchieri di birra o i sughiere, due, non so, uno spumantino, due, mi fa male di testa se non mangio, già mi blocco. Ehi capo, ma se te li bevi il giorno prima non ti succede niente, non succede, perché io sono andato, ho giocato la visita, la di prima, non ero embriaco, ma ero un po' per lì. La di da poi ero tranquillo, cioè la visita è uscita normale. No, ero tranquillo, non c'è problema. Sai cos'è adesso? L'idrato di scatto è che questa alterazione speriamo non sia niente di grave, perché magari poi già lavoro non c'è, questo che mi è uscito purtroppo è andata così, infatti l'ho dovuto dire, stavolta mi avevo chiamato per andare a firmare il contratto, per 6 mesi solo, mica per tanti mesi, magari forse di più, dovrei firmare il vostro contratto e poi vediamo un po' cosa mi dicono, cosa mi dice se sono... se la posso fare o meno, perché se non la posso fare sono fregato. Quello comandano loro, i medici, tutto dipende dai medici, se non ti ritengono idoneo non ti fanno andare, ma speriamo che no, non sia una cosa del genere. Avanti Gianni. Ciao Franco, mi hai sentito e cordialità anche a te. In effetti così. Ma diciamo che è anche un bene, no? Perché se metti in mano un mezzo a uno che beve, può avere cose da sapere per gli altri. Sì, già, su questo, guarda, no? non c'è il minimo dubbio, perché guarda, ti dico una cosa, sia cioè questa legge l'hanno fatta per chi beve un bel e per i tossici l'hanno fatta, ed è giusto che non mettano in mezzo in mano a una persona del genere, perché tu pensa come sono io, al lavoro che faccio io non è che lavoro così, io ho un mezzo in mano ed è anche pericoloso quello che ho io, carino elevatore, quando sto caricando e cose, ed è un mezzo pericoloso, quello lì se sbagli si è fregato, se caputi, una cosa di fatta a Maragano. Cappaga, ma diciamo che in effetti è così, bisogna essere subito quando si lavora. Io ho detto fanno una selezione, ma nel senso che scartano quelli magari che non vanno bene, che bevono, che si fanno. Comunque se non bene dicete che state a galera, è cosa che fa a fare qui la voce. Ma non c'entra niente se è stato in galera, quello non c'entra niente, l'importante è che sei sano, capito? Che non fai uso di niente, è quello il problema. Quello sì, ma se uno è stato in galera ha più precedenza di un altro normale, capito? Perché lo devo portare sulla buona strada. Quello sì. Avanti Luca, Gianluca, e gli attacchi. Io lo credo già, non è giusto che sia così, io ci vuole gente con la testa sulle spalle e così riflessi sempre pronti. No, Oia, non deve essere nulla lui, se non ha avuto mai problemi, ecco, se dopo non so se sei un tipo che fa anche diciamo un po' di attività fisica o magari ha fatto dello sport, il passato, non so. Sì, Franco. Ehi capo, dai, rientro io e vi lascio per adesso, perché siccome sto rientrando adesso e me ne vado a cena. Comunque dai, ci sentiamo se ci siete più tardi. Ciao Gianluca, ciao Gianni, ciao Luca. Ci sentiamo dopo magari, dai, buon proseguo, buon tutto, ci sentiamo. Ciao, avanti Gianni. Ciao Luca, mi hai sentito? Ci sentiamo, dai. Anche io mi sto guardando un po' il televisore, saluto tutti cordialmente, ma Luca voglio dire Franco, fra poco vorrei guardare un po' di Max, e poi me ne andare perché sono un sacco. Vabbè fra, buon proseguimento, Luca, ripeto. E io sto mangiando, devo prendere le medicine, dai, avete siete dopo, perché che ce le facciamo, solo alla prossima. Gianluca avanti. E altro che Franco, buona carica. Dai, dai, buona visione di TV. Luca lo stesso. Appetito. E io rimango, dai. Se non lo fai in ascolto, guarda anche un po' di TV. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao. Ciao Franco, ciao Gianni, ciao Gianluca. Più tardi o domani, ciao. Sì, ciao.